Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary, di Gustave Flaubert. L'inviato della prefettura leggeva sempre: «E chi non stupirebbe, signori? Solo colui che fosse tanto cieco, tanto sprofondato. Ov'è possibile ormai trovar più patriottismo che nelle campagne, più dedizione alla causa pubblica, più intelligenza in una parola?» «Ah, oh, sempre la stessa musica!» disse Rodolphe. «E maledizione!» «Eppure», obiettava la signora Bovary. «Eh no! Perché declamare tanto contro le passioni? Non son forse l'unica cosa bella che esista sulla faccia della terra? La gran sorgente dell'eroismo, dell'entusiasmo, della poesia, della musica, delle arti, di tutto, insomma!» «Ma occorre pure seguire un poco la pubblica opinione, rispettare la sua morale», disse Emma. «Ah, ma ce ne sono due di morali. Ce n'è una piccola così, la morale convenzionale, quella degli ometti, che muta secondo il profitto e sbraita forte e s'agita in basso, terra terra, come quella accolta di imbecilli che potete contemplare. Ma l'altra, la morale eterna, sta tutto intorno e al di sopra, come il paesaggio che ci avviluppa e il bel cielo azzurro che ci illumina». Rodolphe s'era riaccostato a Emma. Le diceva in fretta, a bassa voce: «Non vi rivolta, forse, questa congiura generale? C'è un solo sentimento che ne sia risparmiato. Gli istinti più nobili, le simpatie più pure, sono oggetto di persecuzione, di calunnia. Se due povere anime finalmente si incontrano, vien subito organizzato tutto perché non possano congiungersi. Eppure debbono reagire, debbono sbattere le ali, debbono chiamarsi le anime che son fatte una per l'altra. Gli ostacoli non hanno importanza. Oh, presto o tardi, tra 6 mesi o 10 anni, finiranno per congiungersi, per amarsi. Gli ostacoli non contano, è il destino che lo esige». Teneva le braccia incrociate sui ginocchi e, alzando così la faccia verso Emma, la guardava da vicino, fissamente. Lei gli vedeva negli occhi piccoli raggi dorati, irradiantisi tutto intorno alle pupille nere. Sentiva il profumo della pomata che faceva luccicare quei capelli. Allora la prese un gran languore. Si ricordò quel visconte che l'aveva fatta ballare alla Vaubyessard. La barba di quello esalava lo stesso odore dei capelli di questo, vaniglia e limone. Inconsapevolmente chiuse quasi gli occhi per affidarsi meglio al respiro. Ma nell'atto che compì, irrigidendosi sul sedile, intravide lontano all'estremità dell'orizzonte la vecchia diligenza, la rondine, scendere lentamente la china dell'Eau, strascicandosi dietro un lungo pennacchio di polvere. In quel carrozzone giallo Léon era venuto tante volte da lei e per quella strada se n'era andato per sempre. Credette di vederlo di nuovo affacciato a quella finestra di rimpetto a lei. Poi tutto si confuse, passarono delle nubi. Le parve di girare di nuovo nel valzer sotto la luce dei lampadari tra le braccia del visconte. E Léon non era lontano, stava per arrivare. E intanto sentiva così vicina alla sua la testa di Rodolphe. La dolcezza di quella sensazione si sovrapponeva ai desideri di una volta, come sabbia agitata dal vento. Ricordi, rimpianti, sogni turbinavano nelle sottili folate di profumo che pervadevano la sua anima. Dilatò le narici più volte, forte, per aspirare la frescura delle edere attorte ai capitelli. Si sfilò i guanti, si asciugò le mani. Poi si sventolò con il suo fazzolettino, mentre l'inviato della prefettura si mise finalmente a sedere. La seduta era finita, la folla si disperse. Adesso che i discorsi erano stati letti, ognuno riprendeva il proprio posto. Tutto rientrava nell'abitudine. I padroni maltrattavano i servitori e costoro picchiavano le bestie che, indolenti trionfatrici, se ne tornavano alla stalla con le corna coronate di verde. La signora Bovary prese il braccio di Rodolphe. Lui la riaccompagnò a casa. Si separarono davanti alla porta. Poi lui andò a passeggiare da solo per i prati. Passarono 6 settimane. Rodolphe non si faceva vedere. Una sera, finalmente, ricomparve. Lei era sola. Moriva il giorno. Le tendine di mussola smorzavano contro i vetri la luce del crepuscolo. Rodolphe restò in piedi. Emma rispose appena alle sue prime frasi di cortesia. «Io ho avuto da fare. Sono stato malato», disse lui. «Gravemente», esclamò lei. «Ebbene», disse Rodolphe sedendosi su uno sgabello accanto a lei. «No, non sono voluto venire, ecco». «E perché mai?» «Non lo indovinate?» La guardò ancora una volta, ma con tale violenza che lei abbassò gli occhi avvampando. «Emma!» «Signore!» protestò lei scostandosi un poco. «Ah, vedete!» replicò lui con voce malinconica. «Vedete che avevo ragione a non voler venire. Voi mi proibite addirittura di pronunciare questo nome che mi è sfuggito e mi riempie l'animo. Signora Bovary! Ah, vi chiamano tutti così, e invece non è il vostro nome, è il nome di un altro! Di un altro!» ripeté, e si nascose la faccia tra le mani. «Sì, io penso a voi in continuazione. Il vostro ricordo mi tormenta. Oh, scusatemi, vi lascio, addio. Me ne andrò lontano, tanto lontano che non sentirete più parlare di me. E, tuttavia, oggi non so quale forza mi ha spinto verso di voi. Non si può lottare contro il cielo. Non si resiste al sorriso degli angeli. Si viene trascinati da quanto è bello, adorabile, incantevole». Era la prima volta che Emma si sentiva dire cose simili. E la sua vanità si distendeva languidamente al calore di quelle parole, come una persona che si ristori accanto al fuoco. «Ma se non sono venuto, se non ho potuto vedervi, almeno ho contemplato quanto vi circonda. La notte, tutte le notti, mi alzavo, arrivavo sin qui, guardavo questa casa, il tetto che scintillava sotto la luna, gli alberi in giardino che si piegavano davanti alla vostra finestra, e un lumino, una luce attraverso i vetri nell'ombra. Ah, voi non sapevate che c'era lì, così vicino e così lontano, un povero infelice». Lei si girò verso di lui con un singhiozzo. «Oh, come siete caro!» «No, io vi amo, ecco tutto. E voi lo sapete bene. Ditela una sola parola, una sola parola!» E Rodolphe, insensibilmente, si lasciava scivolare dallo sgabello al pavimento. Ma si sentì un rumore di zoccoli in cucina. La porta della sala, lui si accorse, non era chiusa. «Sareste veramente misericordiosa», disse ancora rialzandosi, «se appagaste una mia fantasticheria». Voleva visitare la casa, desiderava conoscerla. La signora Bovary non vi vedeva nulla di sconveniente, si alzò anche lei, ma in quel momento entrò Charles. «Buongiorno, professore», gli disse Rodolphe. Il medico, lusingato da quel titolo inatteso, si profuse in complimenti. L'altro ne approfittò per rimettersi un poco. «La signora mi parlava della sua salute». Charles lo interruppe. Effettivamente aveva 1000 preoccupazioni. I malesseri di sua moglie ricominciavano. Allora Rodolphe domandò se non avrebbe potuto giovare un poco di equitazione. «Certo, eccellente, perfetto. Ecco un'ottima idea. Dovresti proprio seguirla». Poiché lei obiettava che non aveva cavallo, Rodolphe ne offrì uno. Lei rifiutò. Lui non insisté. Poi, tanto per giustificare la visita, disse che il suo uomo, quello del salasso, provava ancora dei capogiri. «Passerò da lui», disse Bovary. «No, ve lo manderò io. Verremo noi, così vi disturberete meno». «Ah, benissimo, vi ringrazio». Quando furono soli, Charles si rivolse alla moglie. «Perché non accetti l'offerta del signor Boulanger? È veramente gentile». Lei assunse un'aria imbronciata, cercò 1000 scuse. Alla fine dichiarò che la cosa poteva apparire strana. «Oh, me ne infischio io», disse Charles facendo una piroetta. La salute è prima di tutto. Hai proprio torto. E come vuoi che monti a cavallo se non possiedo un costume da amazzone? Oh, devi ordinartene uno, rispose lui. L'idea del vestito nuovo la decise. Quando il vestito fu pronto, Charles scrisse al signor Boulanger che la moglie era a sua disposizione e che faceva affidamento sulla sua cortesia. Il giorno dopo, Rodolphe arrivò davanti alla porta di Charles con due cavalli da sella. Uno portava agli orecchi dei fiocchetti rosa e aveva una sella da donna in pelle di daino. Rodolphe aveva calzato grandi stivali flosci, dicendosi che senza dubbio lei non doveva averne mai visti di simili. In realtà, Emma restò incantata dal suo aspetto quando lui le comparve davanti sul pianerottolo con l'ampia giacca di velluto e i pantaloni bianchi. Era in ansia, lo stava aspettando. «Buona passeggiata!» gridò Omé. «E prudenza, soprattutto prudenza!» e sventolò il suo giornale guardandoli allontanarsi. Non appena avvertì il terreno morbido sotto gli zoccoli, il cavallo di Emma si mise al galoppo. Rodolphe le galoppava accanto. Scambiavano qualche parola ogni tanto. La faccia un poco abbassata, la mano alta, il braccio destro teso, lei si abbandonava alla cadenza del movimento, se ne lasciava cullare sulla sella. All'inizio della salita Rodolphe allentò le redini. Partirono insieme in uno slancio simultaneo. Poi, in cima, i cavalli si fermarono di colpo. Il gran velo azzurro di lei ricadde in moto. Si era ai primi di ottobre. C'era nebbia sulla campagna. Nuvole si allungavano all'orizzonte tra i profili delle colline. Altre, lacerandosi, salivano, si perdevano in alto. A volte, in uno squarcio, in un raggio di sole, si scorgevano lontani i tetti di Yonville, con i giardini sulla sponda del fiume, i cortili, i muri e il campanile della chiesa. Emma socchiudeva gli occhi, riconosceva la sua casa, e mai il povero paese in cui era condannata a vivere le era apparso tanto piccolo. Dall'altezza in cui si trovavano, la valle si spalancava come un immenso lago pallido svaporante nell'aria. I ciuffi d'alberi sparpagliati in questo spazio si staccavano come nere rocce. Le alte cime dei pioppi si imponevano alla bruma, creando una suggestione di spiagge sconvolte dal vento. Vicino, sul prato verde, tra gli abeti, nell'atmosfera tepida, era diffusa una luce bruna. La terra rossastra come polvere di tabacco smorzava il rumore dei passi. Avanzando, i cavalli spingevano con la punta dei ferri le pigne cadute. Rodolphe ed Emma costeggiarono così il limite del bosco. Ogni tanto lei si girava per evitare il suo sguardo. Allora vedeva solo i tronchi allineati degli alberi, la cui successione continua la stordiva un poco. I cavalli soffiavano, il cuoio delle selle scricchiolava. Al momento in cui entravano nella foresta, apparve il sole. «Dio ci protegge!» disse Rodolphe. «Lo credete davvero?» disse lei. «Avanti, avanti!» la esortò. Fece schioccare la lingua. Le due bestie galopparono avanti. Lunghe felci sporgenti dall'orlo del sentiero si impigliavano nella staffa di Emma. Senza fermarsi, Rodolphe si chinava e le strappava via a mano. Altre volte, per evitare i rami, le passava vicino. Lei sentiva quel ginocchio sfiorarle la gamba. Il cielo era turchino adesso. Le foglie stavano immote. Smontarono. Rodolphe legò i cavalli. Lei procedeva avanti, sul musco, tra le carraie. Ma la veste troppo lunga l'impacciava, sebbene la tenesse sollevata per la coda, e Rodolphe, camminandole dietro, contemplava tra quella stoffa nera e quella scarpina nera il biancore delicato della calza che pareva rivelargli qualcosa della sua stessa nudità. Si fermò. «Sono stanca». «Avanti, sforzatevi ancora! Coraggio!» 100 passi più in là, lei tornò a fermarsi. Attraverso il velo che dal cappello di foggia maschile le scendeva obliquamente sui fianchi, la sua faccia affiorava in un riflesso azzurro, come se navigasse sotto onde turchine. «Dove si va, dunque?» Lui non rispose. Lei respirava affannosamente. Lui non faceva che guardarsi intorno, si mordicchiava i baffi. Arrivarono a una radura più larga, ove avevano abbattuto dei quercioli. Si sedettero su uno di quei tronchi tagliati. Rodolphe attaccò a parlare dell'amore che sentiva per lei. Dapprima non volle spaventarla con le galanterie. Ostentò calma, serietà, malinconia. Lo ascoltava a testa china. Continuava a smuovere con la punta del piede certe schegge di legno sparpagliate sul suolo. Ma lui disse: «Non è forse vero che ormai possiamo avere un solo destino?» Allora lei reagì. «Eh no! Lo sapete bene, invece, che è proprio impossibile!» E si alzò per andarsene. Lui la afferrò per il polso. Lei si fermò. Lo guardò per qualche attimo con occhi umidi d'amore. Poi disse vivacemente: «Lasciamo perdere, non ne parliamo più. Dove sono i cavalli? Meglio tornare!» Lui ebbe un gesto di collera e di fastidio. Lei insisté. «Dove sono i cavalli? Dove sono i cavalli?» Allora, sorridendo ad uno strano sorriso, gli occhi fissi, i denti serrati, le braccia spalancate, lui si fece avanti. Lei indietreggiò, tremava, balbettò. «Mi fate paura, mi fate male, andiamo via!» «Se è proprio necessario», replicò lui e cambiò faccia. Ridiventò immediatamente rispettoso, gentile, timido. Lei gli ridette il braccio. Si incamminarono. Lui diceva: «Ma cosa avevate prima? Perché? Non ho capito. Vi siete ingannata, senza dubbio. Qui, dentro di me, voi siete come una Madonna su un piedistallo, collocata al posto più alto, saldo e immacolato. Ma io, sapete, io ho bisogno di voi per vivere. Ho bisogno dei vostri occhi, della vostra voce, del vostro pensiero. Siate la mia amica, la mia sorella, il mio angelo!» E intanto allungava quel suo braccio, le circondava la vita. Lei tentava di liberarsi mollemente. Camminando, lui la sosteneva in quel modo. Ma sentirono i due cavalli strappare il fogliame. «Oh, ancora, ancora! Non andiamo via, restate!» disse Rodolphe. La trascinò più lontano, vicino a un piccolo stagno su cui le lenticchie acquatiche si ammucchiavano in uno strato verde. Ninfee appassite stavano immobili tra i giunchi. Al fruscio dei loro passi tra l'erba, le ranocchie saltavano in cerca d'un nascondiglio. «È tutto uno sbaglio, è tutto uno sbaglio! Sono pazza a starvi a sentire! Perché mai, Emma? Emma! Oh, Rodolphe!» bisbigliò lentamente la giovane donna e gli reclinò il capo su una spalla. Il panno del suo vestito aderiva al velluto della giacca. Lei rovesciò il collo bianco dilatato da un sospiro e, stremata, tutta in lacrime, celando la faccia in un lungo fremito, si abbandonò. Ormai calavano le ombre della sera. Il sole orizzontale, filtrando tra i rami, la accecava. Qua e là, intorno a lei, tra il fogliame o sull'erba, tremolavano chiazze luminose, come se colibrì, volando, avessero seminato le proprie piume. Ovunque era silenzio. Gli alberi stessi parevano emanare dolcezza. Lei si sentiva il cuore riprendere a palpitare e il sangue le fiottava nella carne come un fiume di latte. Allora le giunse all'orecchio da lontano, molto da lontano, di là dal bosco, sulle altre colline, un grido vago e prolungato, un richiamo strascicato. Lo ascoltava, muta, confondersi nelle ultime vibrazioni dei nervi scossi. Rodolphe, il sigaro tra i denti, riaggiustava con il suo temperino una briglia rotta. Ritornarono a Yonville per la stessa strada. Rividero sul fango le peste dei cavalli a fianco e gli stessi cespugli, le stesse pietre nell'erba. Nulla era mutato intorno a loro. Eppure, per lei era accaduto qualcosa di più sconvolgente che se le montagne si fossero spostate. Rodolphe ogni tanto si chinava e le prendeva la mano per deporvi un bacio. Era deliziosa lei a cavallo, dritta, con la sua figuretta snella, il ginocchio piegato sulla criniera della bestia e un poco arrossata dall'aria aperta, dal riflesso del tramonto. Entrando a Yonville, caracollò sul selciato. La guardavano dalle finestre.